Ci sono stati contesti come quello cinese, di cui parleremo domani, che hanno avuto un intenso sviluppo anche molto rapido. Ci sono stati invece contesti che sono definitivamente affondati o che rischiano di affondare definitivamente, come in molti paesi dell'Africa nera. Ci sono situazioni in cui ci sono stati effetti da comprendere, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. In particolare in Europa e negli Stati Uniti abbiamo assistito a una serie di fenomeni sociali collegati: la crisi del welfare, il crollo dei tassi occupazionali, la contrazione dei salari, che sono effetti che vengono presentati come, da un lato, costo inevitabile della globalizzazione, dall'altro come un fenomeno transitorio destinato ad essere superato man mano che la globalizzazione, creando più ricchezza, creerà anche la risposta a questi bisogni che momentaneamente sono rimasti non compensati, non soddisfatti. Spesso è questa la spiegazione che viene data. Noi cercheremo di capire esattamente se è di questo che si tratta. Dicevo che tendenzialmente gli effetti, ragazzi, io ho detto che alle 11:20 inizia la lezione per evitare questo defilé continuo. Allora, in particolare, tutti gli osservatori sociali convengono su questo. Negli ultimi 20 anni si è determinata una situazione, primo, di blocco della mobilità sociale. La mobilità sociale nei paesi occidentali, per la verità più negli Stati Uniti che in Europa, per quanto contenuta, ha però avuto tassi crescenti per tutto il Novecento, alla fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Il prossimo è trasmetto di far lezione. Ragazzi, siamo alla fine, però per piacere, questa è una cosa alla quale tengo. Questo fatto dell'ingresso alla spicciolata deve finire. Ho detto che la lezione inizia alle 11:20 e alle 11:20 deve iniziare. Per piacere, qualcuno chiuda la porta, non faccia più entrare chi viene. Allora, anche perché una lezione fatta in questa maniera non serve a niente. Dicevo, la mobilità sociale, per quanto più vantata che sia, si è però realizzata fra la fine dell'Ottocento e almeno gli anni 60-70 in tutto il mondo occidentale, in particolare negli Stati Uniti. A volte era un po' una leggenda, il famoso esempio del presidente Carter, che scrive la sua autobiografia intitolata 5 anni vendevano celine e sono diventato il presidente degli Stati Uniti, a dimostrazione dell'American Dream, il sogno americano, nel quale chiunque, anche un ragazzino che ha 5 anni, vende noccioline, può conquistare le posizioni più alte. Quello che conta è il merito. In realtà questa della meritocrazia, principio in sé giustissimo, che talvolta è erratamente attaccato. Il principio della meritocrazia è fondamento della democrazia, però talvolta viene utilizzato in modo surrettizio per contrabbandare altra merce. Molto spesso viene presentato per merito quello che merito non è. Essere figlio di Gianni Agnelli non è un merito. Essere l'erede di una grande fortuna, disporre di certi meccanismi che per l'uno o per l'altra assecondano o al contrario ostacolano lo sviluppo, per esempio, di una carriera lavorativa, spesso prescinde dal merito e ha invece altre ragioni sociali, altre origini sociali. Quindi nel complesso c'è stata molta ideologia, ma nel complesso qualcosa funzionava. Negli ultimi 20 anni invece si osserva una notevole stagnazione. Secondo effetto, generalmente considerato, una tendenza a salari decrescenti. Contrariamente a quello che è accaduto nel passato, dopo vedremo alcune slide, contrariamente a quello che è accaduto nel passato, per circa un secolo noi abbiamo assistito a una tendenza, salari crescenti e orario di lavoro decrescente. Il movimento operaio ha ottenuto una delle sue più importanti vittorie con la giornata lavorativa di 8 ore e in molti contesti è riuscito a scendere al di sotto delle 8 ore o comunque al di sotto delle 40 ore settimanali, cioè 8 ore ma per 5 giorni alla settimana e non 6. Ha ottenuto un'ulteriore riduzione orario di lavoro con le ferie pagate, eccetera. Quindi per quasi 100 anni, no, per cortesia signorina, la prego di non entrare, ho già iniziato la lezione. No, ho detto che entro 11:20 inizio, prego. Dicevo, per quasi un secolo noi abbiamo assistito alla costante espansione dei diritti dei lavoratori, che si è soprattutto rivelata nella riduzione della quota di tempo destinata al lavoro e nell'aumento della quota di tempo libero. E questa è stata una delle precondizioni della mobilità sociale, perché ovviamente se hai il tempo di non lavorare per una mera sussistenza, ma puoi permetterti il lusso di frequentare un corso universitario o comunque di migliorare la tua professionalità, questo significa la possibilità di conquistare una posizione sociale più elevata. Quindi questo era in qualche modo la precondizione di quello che vi ho detto prima, di una certa mobilità, cioè di quell'ascensore sociale che non era proprio così funzionante, ma insomma un po' di gente, non tanta, la portava al piano di sopra. E invece da 20 anni noi assistiamo a una tendenza assolutamente contraria: aumento del tempo di lavoro, diminuzione della retribuzione. Ancora, tutto questo coincide con una tendenza al calo occupazionale costante. La cui spiegazione viene data dal trasferimento, dalla delocalizzazione industriale di cui, se vi ricordate, vi ho parlato in una delle prime lezioni, e per il quale sostanzialmente l'industria del mondo occidentale in gran parte è stata trasferita in o paesi dell'ex Europa orientale o paesi asiatici. La manifattura in gran parte si è spostata. E questo naturalmente è ridotto tasso occupazionale. Tutto questo a sua volta ha prodotto una precarizzazione di massa, una diminuzione della sicurezza sul posto del lavoro e quindi un più generale peggioramento delle condizioni di lavoro che è universalmente conosciuto, ha comportato parallelamente una cosa importante. Uno degli effetti del welfare state più importante dal punto di vista sociale era la nascita di una robusta fascia di ceti medi. Il ceto medio ha rappresentato in qualche modo il frutto interno del patto socialdemocratico. Il ceto medio era la grande riserva di stabilità dei sistemi. Da un lato il freno a un'eventuale rivoluzione socialista, dall'altro si curava che il ceto medio non si radicalizzasse verso destra, dando luogo a una rivoluzione di tipo nazionale o fascista, come era accaduto in Germania e in Italia. Il welfare agiva come una sorta di termostato che raffreddava la temperatura complessiva dell'ambiente, rafforzando la quota di stabilità, il ceto medio. Quello che si osserva dagli ultimi 20 anni è una costante regressione, un impoverimento del ceto medio, una tendenza all'appiattimento sul basso per esempio delle retribuzioni impiegatizie, un aumento della pressione fiscale sul ceto medio. Ecco, questo è un aspetto particolare sul quale dobbiamo riflettere. Tutta la rivoluzione imperialista è partita, ha giustificato l'attacco allo Stato sociale su che cosa? Sulla necessità di far diminuire le tasse per consentire lo sviluppo. In una certa misura le tasse sono diminuite, ma meno di quanto non si creda. E allora come mai la pressione sul ceto medio è aumentata? Semplicemente per una questione. La liberalizzazione, lo spostamento libero di masse di capitali, ha consentito il meccanismo dei mercati offshore, che a sua volta ha permesso una massiccia evasione fiscale. È come se nel sistema di stati, voi sapete che nel mondo ci sono 194 stati, è come se ci fosse stato un 195esimo stato, quello che gli americani chiamano Richland, il paese dei ricchi, che sottrae risorse da tutti gli altri e non paga nessuno, come se avessimo concentrato in un immaginario stato tutti ricchi, sottraendoli alla pressione fiscale degli altri 194 stati. E dunque è accaduto che noi abbiamo un mastello ducato per il quale, per quanta acqua butti dentro, una parte ne esce, quindi sei costretto ad aprire ulteriormente il rubinetto. Ecco perché abbiamo trasferito la pressione fiscale sui grandi gruppi finanziari in buona parte sul ceto medio, e questa è una delle spiegazioni dell'impoverimento del ceto medio, il suo appiattimento verso il basso. A questo poi si sono collegati altri aspetti, per esempio la grande distribuzione ha frantumato buona parte del ceto medio commerciale, dei lavoratori autonomi. L'Italia aveva più peso, per esempio, l'artigianato o il mondo dei coltivatori diretti, ma anche lì, in qualche modo, i processi di concentrazione finanziaria, l'industrializzazione dell'agricoltura, eccetera, ha ulteriormente depresso questa area sociale. Quindi, eclisse del ceto medio. Tutto questo poi, a sua volta, ha determinato altri effetti. Ora, per il momento c'è qualcuno che parla addirittura di fine del sociale, come Alain Touraine. I francesi amano un po' questi titoli a effetti. Uno degli aspetti sarebbe stato determinato da questa esplosione di tipo individualista. Un momento facciamo qualche considerazione. Uno storico della sociologia, Ostrowski, nel 74, pubblicò un libro nel quale partiva da una considerazione, dal fatto che gli schemi di interpretazione sociologica possono ridursi sostanzialmente a tre. C'è lo schema di tipo dicotomico, che tende a polarizzare chi ha il potere contro chi non lo ha, i ricchi contro i poveri, gli operai contro i proletari e così via. Oppure, per esempio, anche in chiave religiosa, per esempio l'Apocalisse di San Giovanni descrive il giudizio finale come la separazione fra i dannati e i salvati. Anche quella è una visione dicotomica. C'è poi lo schema triarchico, che è quello che descrive tre gruppi fondamentali, e quindi, per esempio, proletariato, ceto medio e borghesia. Schema triadico, voi lo trovate anche in letteratura ed è stata una conquista importante del pensiero romano, in particolare dal 200 in poi, e inizia con un fenomeno religioso che è l'affermazione dell'idea del purgatorio. Il purgatorio permette di dividere in tre il destino degli esseri umani post mortem: l'inferno per i dannati, i peccatori, il paradiso per i santi, ma il purgatorio per la gran massa dei peccatori pentiti, in quanto tali salvati. Tutto questo voi lo troverete teorizzato abbondantemente nella Divina Commedia di Dante. Su Successivamente questo schema ipotriadico è tornato diverse volte nel dibattito politico-culturale e sociale. E poi c'è lo schema funzionale. Lo schema funzionale è quello che dipinge la società come un continuum di gradini, dove ciascuno occupa un singolo gradino. Non ci sono classi, non ci sono aggregati sociali, non ci sono gradini più alti e più bassi. Ciascuno occupa una sua posizione autonoma. Ora, naturalmente tutto questo significa che l'uso di questi schemi non è un fenomeno, diciamo, neutrale. Questo tipo di raggruppamenti non sono presenti in natura, non stiamo classificando le specie appartenenti alla razza canina, no? Stiamo raggruppando in un'immagine, l'idea di classificare, di dare una nomenclatura sociale, corrisponde a un sistema valoriale. Per cui in qualche modo c'è un rapporto fra il tipo di schema, la lente che usi per guardare il reale e gli effetti sociopolitici che vuoi avere. Ad esempio, un autore come Marx usa sia lo schema dicotomico che lo schema triadico, a seconda del contesto nel quale scrive. Nel manifesto del Partito Comunista prevale nettamente lo schema di tipo dicotomico. La storia è presentata come uno scontro sempre fra patrizi e plebei, fra servi della leva e feudatari, fra proprietari e lavoratori, fra borghesia e proletariato. Quindi c'è uno schema tendenzialmente dicotomico, ma lo stesso Marx in altri scritti, quando si accentua il suo carattere non di agitatore politico ma di analista, privilegia uno schema di tipo triadico. Per esempio nei Grundrisse distingue fra, sì, c'è un proletariato che non possiede i mezzi di produzione, ma fra quanti possiedono i mezzi di produzione distingue fra la rendita e il profitto. Il proprietario del campo di grano che lo fitta o lo utilizza dandolo in qualche modo in uso a dei contadini, a una qualsiasi società, è un rentier, è uno che vive di rendita, si limita a percepire semplicemente un guadagno, non svolge alcuna attività. Viceversa, il profitto è quello dell'industriale. Oppure lo stesso Marx distingue fra ceto medio, proletariato e borghesia. Oppure in altri scritti come il 18 Brumaio di Luigi Napoleone, Marx dice che nello scontro fra le classi in cui nessuna riesce a prevalere, non riesce a prevalere perché appunto c'è uno schema del tipo rendita, profitto, proletariato, si afferma un ulteriore soggetto con una sua autonomia, la burocrazia militare, che fa il corpo di Stato di Napoleone III e assume una sua funzione autonoma di garanzia dell'unità nazionale che prevale al di sopra delle classi. Bene, ovviamente tutto questo in qualche modo ha a che fare anche con quello che vuoi fare. Uno schema di tipo dicotomico risulterà infinitamente più utile in discorsi di natura, in progetti di natura rivoluzionaria, dove tu cerchi di sollecitare al massimo la linea di spaccatura centrale per ottenere uno scontro non mediabile. Viceversa, uno schema di tipo triadico si presterà di più a soluzioni di tipo riformista, che puntano di più alla mediazione e quindi a un occasionale gioco di alleanza fra i tre elementi, fra due dei tre elementi rispetto al terzo e così via. Uno schema funzionale sarà invece uno schema classicamente liberale che esalta al massimo la dimensione individualista. Uniquisque fa per fortune sue, ciascuno è artefice della propria fortuna. Quindi il recupero dell'idea meritocratica come teorizzazione della collocazione individuale nella scala sociale. Non ci sono gruppi sociali, ci sono individui. Gli L'ideologia della globalizzazione non è un caso che le teorie funzionaliste abbiano avuto il massimo della loro espansione e della loro fortuna nella sociologia americana degli anni 30, 40 e 50. Autori come per esempio Walter Parsons hanno avuto un ruolo importante nel creare questo tipo di analisi. L'American Dream, il sogno americano, si nutre di questa idea della possibilità che ogni individuo possa percorrere tutte le scale della gerarchia sociale fino al gradino che gli compete per merito e capacità. Questo ha finito con il produrre una atomizzazione individuale. La società della globalizzazione è una società iperindividualista. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Ma cosa ha prodotto questo iperindividualismo? Bene, per quanto riguarda, cerchiamo di esaminare gli effetti sui vari gruppi sociali. Per quanto riguarda i lavoratori, i precari, i giovani disoccupati, in una certa misura anche certe fasce di ceto medio, tutto questo ha prodotto un forte effetto di frammentazione verso il basso. Verso il basso abbiamo assistito a quella riduzione delle garanzie, a una precarizzazione di massa che si è intrecciata fatalmente con una tendenziale deprofessionalizzazione. Voi vi rendete conto che è una pretesa piuttosto infondata quella di dire ti devi abituare a cambiare lavoro 8 volte nella vita, però devi imparare ad essere sempre più professionalizzato. Ma se per 6 mesi fai il dattilografo, per altri 11 fai il babysitter, per altri 7 fai l'amministratore di un condominio e altri 24 mesi stai in un call center, quale professionalità riesci a sviluppare? Ovviamente nessuno. E se io ti pago sempre meno e ti faccio lavorare sempre più, quale tempo avrai da destinare alla tua formazione professionale? Quindi questo ha coinciso con un tasso di intensa deprofessionalizzazione di larghe fasce di ceti subalterni. Questo per la verità si è accompagnato anche a un riflesso ideologico che paradossalmente si rafforza, ecco, realizza un feedback positivo, per cui una cosa rafforza l'altra, si pretende il cane che si morde la coda. Il rifiuto del lavoro. Il rifiuto del lavoro è stato un tema che da un lato si è prodotto come allergia al lavoro, soprattutto delle classi d'età più giovanili negli anni 70, la mia generazione, che avendo avuto accesso all'università, all'istruzione superiore, eccetera, reclamava un inserimento nel mercato del lavoro in fascia medio-alta o possibilmente un inquadramento saltuario che lasciasse il massimo di tempo libero. E tutto questo è stato anche teorizzato da alcuni movimenti politici. Ad esempio l'autonomia operaria, Ettore Negri, aveva nel rifiuto del lavoro il suo asse portante. E questo è il massimo di sabotaggio al capitale, è il rifiuto del lavoro. Gli uomini non hanno più bisogno di lavorare. L'automazione ha risolto i problemi e la teoria dell'onda barbarica che in qualche modo produce la nuova società che troverete in me. Io ho sempre trovato letteratura piuttosto scadente. È letteratura che in effetti ha finito per fare un largo favore alla controparte. Cancellare l'etica del lavoro significa cancellare l'identità del lavoratore in quanto tale. Quello che è coinciso abbondantemente con uno degli aspetti ideologicamente più riusciti dell'offensiva liberista, per cui l'identità del lavoratore veniva sostituita dall'identità del consumatore. Solo che mentre il lavoratore ha una professionalità, il consumatore non ha. Voi per caso studiate come far la spesa? Oddio, magari sì, tra un po' i corsi universitari arriveranno a questo, però ancora pare che non ci sia una professionalità nel far la spesa. Il lavoratore è tale perché definisce una sua identità rispetto al sociale, il consumatore in quanto tale ha solo la funzione di acquistare, ma qui si pone un problema. Nella società della globalizzazione siamo noi che acquistiamo le merci o sono le merci che acquistano noi? Quando l'acquisto delle merci comporta un continuo sistema rateale, indebitamento, per cui a un certo punto tu devi lavorare sempre di più per pagare le rate, dalla rata auto alla rata per il televisore o per i mobili o per l'acquisto della casa, e sei tu che hai acquistato le merci o le ditte produttrici e le banche che hanno acquistato te tramite quelle merci. Ecco un problema che vale la pena di porsi, ed ecco perché aver sostituito all'identità del lavoratore l'identità del consumatore è stata un'operazione profondamente interna, ideologica, profondamente interna a questa scuola, che ha come suo punto d'arrivo due aspetti. Guardate, se sul basso si è prodotta una frammentazione interindividualistica e l'eclisse dei movimenti sociali di cui parla Turenne, che è sul tuo computer, vabbè, che apprezza il fatto che ci siano queste tendenze sociali, da quello che capisco, però finisco di dirtelo. Allora, se sul basso c'è stata questa frammentazione, sull'alto invece non c'è stata alcuna frammentazione, lo vedremo fra un po', c'è stata invece una contrazione del blocco di potere che è diventato sempre più compatto, sempre più solido. È finita la lotta di classe, dice qualcuno, e ricordo una vignetta di Altan nella quale l'operaio diceva all'altro: sì, ma voglio dire al padrone che la smettesse, che è finita la lotta di classe, perché lui non lo sa, e sta continuando a farla. Al di là delle battute, questo significa una cosa: sul basso c'è stata la frammentazione, non sull'alto. E questo ha prodotto società occidentali che hanno questa caratteristica: una marcata gerontocrazia. Noi abbiamo classi dirigenti sempre più vecchie, abbiamo ormai classi dirigenti di azienda, politiche, nei giornali, negli ospedali, dove l'apice del potere è tendenzialmente fatto da ultrasettantenni che non hanno alcuna intenzione di sgomberare il campo. È un po' il discorso che vi ho accennato del rifiuto, dell'ossessione della morte. Lasciare il campo è una sorta di anticipazione, è entrare nella sala d'attesa, è visto con orrore. Un piccolo esempio: la tendenza, per esempio, il tentativo che era stato una riforma universitaria in corso, non so poi come andrà a finire, di introdurre una norma per la quale i rettori non vanno in pensione, per cui anche a 90 anni possono continuare a fare i rettori. È una piccolissima spia di questa psicologia, cioè il potere progenerazionale che conferma se stesso. Di riflesso, questo atteggiamento gerontocratico ha prodotto un fenomeno che, del quale io non so quanto ci sia percezione, un fenomeno che io vedo in termini di juvenofobia, di odio per i giovani, per le classi più giovani. Noi siamo di fronte alla lacerazione del patto fra generazioni, e questo è uno degli aspetti che dobbiamo studiare delle nostre società. La nostra generazione intende accanitamente mantenere alcune sue conquiste o privilegi, diritti o privilegi, poi stabiliamo cosa sono. Ma per farlo, ad esempio, la pensione, ma per farlo qualcuno ha da lavorare per pagarci la pensione. E se quando eravamo giovani noi c'era un lavoratore attivo ogni 3 abitanti e 20 anni fa ce n'era uno ogni 9, la tendenza oggi è ad aumentare fortemente il taglio. Si considera, ci sono due autori che teorizzano la società del 20-80, cioè che dicono come da dichiarazione di Brzezinski, che ci stiamo avviando una società nella quale il 20% della forza lavoro attiva è sufficiente a produrre tutte le merci e i servizi di cui c'è bisogno. C'è un 80% di umanità che non serve più e alla quale dobbiamo dare il minimo di sussistenza, perché non si ricordi, il tittletainment, cioè il tit è l'allattamento, e la fusione fra parola allattamento e la parola intrattenimento, per il quale noi intratteniamo questa eccedenza, questa umanità eccedente, con il minimo necessario per la sopravvivenza, in modo che non turbi l'ordine costituito. E qui cominciate a capire che la disoccupazione di massa non è un dato transitorio, ma è una scelta strategica di un modello sociale che si vuole affermare. Non è un incidente della globalizzazione, è in qualche modo un obiettivo coscientemente perseguito. La disoccupazione di massa è uno strumento fondamentale per rifondare l'idea di potere sociale. L'80-20, l'atteggiamento della giovanofobia, per cui il giovane è un nemico che deve solo adattarsi alle condizioni date, è uno degli obiettivi di quello che io definisco il totalitarismo liberale. Quando ho detto questa cosa, i miei colleghi mi hanno guardato un po' come se fossi matto, dicendo una cosa è un ossimoro, è un non senso. Il liberalismo non può essere totalitario. Totalitarie sono le ideologie estreme, il fascismo e il comunismo. Esiste invece una forma di totalitarismo liberale. Guardate, c'è una cosa che dobbiamo capire. Liberalismo e democrazia non sono idee coessenziali l'una all'altra. È stato un compromesso tra liberalismo e democrazia a un certo punto, ma il liberalismo in quanto tale non è democratico, è elitario e teorizza il potere dell'elite, dell'aristocrazia. In questo senso, attenzione, la vera differenza tra Europa e Stati Uniti è che l'Europa, anche per effetto della rivoluzione francese, è una società tendenzialmente democratica. Gli Stati Uniti, che hanno avuto ben altra rivoluzione, quella americana a sua volta influenzata di più dalla rivoluzione inglese del 1688-89, hanno invece una caratterizzazione liberale, quindi in quanto tale in Italia. E non è detto che il totalitarismo debba essere il potere dell'uno, la dittatura individuale. Il totalitarismo può anche coincidere con la conservazione senza alternative di un sistema sociale, di un totato. La parola totalitarismo, sapete chi la inventa in qualche modo? Fra Paolo Sarpi, quando parlando del Concilio Tridentino e della pretesa del Papa di teorizzare definitivamente il suo potere temporale, dice: ma l'unificazione del potere politico del principe, del principato e del potere spirituale del papato, con questa funzione papato e principato insieme producono, e si scusa per aver inventato il termine, cioè, se così si potesse dire, un totato, cioè una totalità di potere che, se volete, è il contrario dell'ispirazione liberale classica, che è quella della poliarchia dei valori, del politeismo dei valori, come lo chiama. Però vedete, le ideologie politiche hanno una loro storia, hanno dei loro percorsi e delle loro possibili degenerazioni, perché a un certo punto sviluppano un loro aspetto piuttosto che un altro. E quindi è accaduto al comunismo, che certamente non aveva come suo fine, come suo scopo i gulag staliniani, però c'è finito. Sta accadendo al liberalismo, che sta rinnegando la dimensione della politeismo dei valori, del pluralismo, a favore della privilegiare la sua vocazione elitaria e la sua vocazione aristocratica. A questo il liberalismo contrappone il nulla alternativo. Fukuyama, che dice, è la fine della storia, questo sta dicendo, stai dicendo non c'è modello sociale alternativo all'esistente. Questo è il punto d'arrivo. E quindi cominciate a capire come tutto questo non è casuale, è un modello di società che si sta affermando. E nella juvenofobia, di cui voi siete l'oggetto, voi dovete leggere anche una cosa, dovete leggere anche la vendetta del potere rispetto al 68. Polini mi chiese un giorno, ma non è che volete il 68, perché fatto il 68 aprendo una serie di porte per voi e ne avete chiuse per noi? Io gli risposi onestamente che in parte era vero. Ma in gran parte è vero anche un'altra cosa. Il 68 e comunque i movimenti correlati agli anni 70 misero in questione il sistema di potere e il modo articolato. Se leggete la microfisica dei potere di Foucault, vi rendete conto di come in qualche modo le idee che circolavano nel tempo erano idee della rimessa in discussione del potere sociale, non solo a livello politico di macrosistema, ma anche a livello di microsistemi. La contestazione del comitato di redazione contro il direttore del giornale, la contestazione dei lavoratori di un policlinico, di una fabbrica nei confronti del direttore sanitario, del manager, la contestazione degli studenti nei confronti del preside, del rettore e così via, realizzava una rivolta molecolare che rimetteva in discussione gli assetti di potere. In qualche modo la globalizzazione liberista è stata la figlia di questa vendetta del sistema di potere che ha riaffermato la sua, cioè la sua autonomia dal sociale e quindi la dissoluzione della sua civile in quanto soggetto attraverso la polverizzazione dei soggetti, la scomparsa dei movimenti collettivi, sostituiti da brevi e intense fiammate in protesta sociale, specie di nuove jacquerie, io spero che voi sappiate cosa sia una jacquerie, vi è chiaro? No, no, bravo. Ma dicevo che vi hanno detto? Allora, nel 2300 la società europea, in particolare francese, venne attraversata da una serie disarminosissime rivolte contadine. Una di queste, una delle più famose, venne guidata da un contadino di nome Jacques. Si trattava di rivolte estremamente distruttive che non tendevano tanto ad affermare un diverso ordinamento sociale, eccetera, quanto esplosioni di saccheggio, di uccisioni, che in qualche modo rappresentavano l'esplosione di una rabbia sociale in una mente malata, che però si disperdeva in queste rivolte e poi venivano in qualche modo donate con episodi di vantaggio. La jacquerie, da Jacques, è la rivolta senza progetto, per capirci. È la rivolta devastante che produce solo una scarica di furore sociale, ma non un ordinamento sociale diverso. Questa è la Jacquerie. E sapete una cosa interessante? All'epoca le zone che erano colpite, vi dice anche delle origini certe cose, di come la storia abbia anche un motivo simbolico, le zone colpite da una Jacquerie e erano segnalate come zone pericolose perché non c'era ordine costituito ed erano in qualche modo indicate con la posizione di una bandiera rossa da parte del potere, state attenti, non dei rivoltosi, all'inizio della strada. Cioè significava di qui c'è una situazione di pericolo, la bandiera, come la bandiera gialla indica un'epidemia, donde poi la bandiera rossa nel 1525 venne assunta da Tommaso Münzer durante la riforma protestante come propria bandiera, come simbolo di rivolta, ed è diventato poi il colore della rivoluzione socialista, del movimento socialista. Quindi vedete come la storia ha radici molto lunghe nel tempo che possono addirittura cambiare di significato un simbolo, e però attraverso una serie di spostamenti semantici logici. In fondo la bandiera rossa non è scelta dei rivoltosi, è scelta come segnale di pericolo dal potere. Tornando alla nostra narrazione, al nostro ragionamento, ecco, quello che si sta producendo è la fine di movimenti che abbiano un carattere progettuale e improvvise esplosioni di jacquerie. Per esempio, ricordo la rivolta delle bandiere parigine nel 2005-2006, se ricordate bene. Oppure con carattere devastante certamente, l'onda ha avuto caratteristiche per certi versi simili, una scarica improvvisa molto concentrata in alcune settimane che ha espresso più protesta che proposta. Tra l'altro è durata troppo poco per poter avanzare efficacemente la proposta. È stata la protesta del malessere degli studenti. Quindi ormai la manifestazione sociale è solo attraverso episodi di malessere collettivo. A tutto questo cosa si contrappone? Ovviamente tutto questo poi significa una cosa: il regresso della protesta sociale, la sua spoliticizzazione, l'affermazione di movimenti di tipo populista, spesso non democratico. In questo senso anche la Lega ha una sua spiegazione, eh? Attenzione, anche movimenti come quello di Haider sono in qualche modo il riflesso di questo regresso della protesta sociale che rimuove la dimensione politica. A tutto questo cosa si contrappone? Si contrappone un modello tendenzialmente uguale: il ceto medio collassa, la società sprofonda, il potere si concentra, nasce quella che viene definita da un autore la superclass. Uno su un milione, considera questa persona che ci siano 6.000 persone in tutto il mondo, manager, dirigenti politici, decisori politici, religiosi, economici, eccetera, che sono quelli che detengono la totalità del potere. La superclass. Tutto questo si manifesta soprattutto attraverso una concentrazione del potere e una remunerazione del potere. Qui ho una cosa che vi può interessare. Ho la graduatoria, vediamo se la trovo, la classifica dei manager italiani, di quanto sono pagati. Lo sapete quanto guadagna all'anno Pietro Giuliani della Azimut Holding? Immagino che non sappiate neanche chi è. È il più povero di tutti, guadagna solo 1.490.000 euro all'anno. Ragazzi, fate una colletta che questo vi dà la fame. Però cominciamo ad andare un po' più verso, ecco, Cesare Romiti della Infregilo ha guadagnato nel 2007 solo 1.700.000 euro, che mi sembra una cosa da fame. Saliamo un po', Roberto Colaninno della Piaggio, Mediobanca, eccetera eccetera, ha avuto un totale di 1.883.000. Qui siamo nella parte bassa della graduatoria, perché poi saliamo man mano. Fedele Confalonieri della Mediaset guadagna 3.305.000 euro e qui siamo al ceto medio. Sì, ma sono loro, io ne c'è. Prego? Sono loro, io ne c'è. Ma tu credi che cose del genere possano essere realmente lorde? Guarda che gran parte di questi sono rimborsi, spese o indennità, o vengono corrisposte estero su estero. Quindi non sono nette, attenzione, però intanto è dichiarato, figurati. Ma tieni conto di una cosa, che su questi tu non devi calcolare le aliquote che calcoli su te, perché una parte di questi compensi sono dati estero su estero, altre sono indennità non tassabili, altre sono, quindi in realtà tu devi considerare una pressione fiscale molto più diretta. Ma in ogni caso, metti pure che sia il 40%, voi pensate a questa cosa. Io ogni volta che dico questo ai miei compagni di partito mi guardano come marziani, io dico voi siete degli imbecilli, perché non capite che la politica fiscale attuale è una politica allucinante. Dire il 42% di aliquota massima a 100.000 euro lordi all'anno è un'imbecillità, perché tu stai mettendo sullo stesso piano il dentista o il barista un po' fortunato, eccetera eccetera, con Tronchetti Provera. Sei un cretino, perché stai dicendo il 42% a quello che guadagna 100.000 euro e a quello che guadagna milioni e milioni e milioni di euro. Primo. che è quello che dicevo prima, cioè la pressione fiscale scaricata sui ceti medi. Quando noi abbiamo fissato quelle aliquote 30 anni fa, 100 milioni, ragazzi, che all'epoca erano 100 milioni, erano soldi. Oggi 50.000 euro non sono 100 milioni di 30 anni fa. Adesso capite perché la pressione è andata via via schiacciando sullo ceto medio. Mentre viceversa, il contribuente più elevato, attraverso il meccanismo dell'offshore, eccetera, eccetera, riesce a ridurre la pressione fiscale reale sul suo reddito intorno al 15%. Quindi il dentista, il barista o, io ricordo, bisogna sapere essere anche autocritici, un manifesto particolarmente imbecille del mio partito, per la quale io dissi che chi l'aveva fatto era un cretino, che per giustificare la finanziaria di Prodi del 2006, che era un delirio, uscì con un manifesto in cui c'era una barca, uno yacht, e poi c'era scritto che anche i ricchi piangano. E disse, cretino, il ricco che sta colpendo è quello che c'ha l'autorimessa o quello che c'ha il dentista o il... Non certamente Tronchetti Provera. A parte il fatto che semmai il nostro obiettivo dovrebbe essere che anche i poveri ridano piuttosto che anche i ricchi piangano, tutto sommato il mio obiettivo è che ridano i poveri, no? Ma quest'idea imbecille di pensare che quello che guadagna 100.000 euro è il ricco vi dà un'idea della repressione culturale di cui vi parlavo prima. Questo è uno degli effetti. Guardate come il populismo può produrre degenerazione anche in ambiti di cultura politica completamente diversi. Dunque, per farvela breve, andiamo nelle classi alte, va? Carlo Buora della Telecom mette in tasca 11.941.000 euro. Dopodiché, guarda, porrino, che sia lordo o che sia netto, mi sai dire che differenza fa quando uno piglia 12 milioni di euro all'anno? Metti pure che sia il 40%, sono comunque tanti. Poi Riccardo Ruggero della Telecom ne intasca 17 milioni. Cesare Geronzi 24 milioni. Per arrivare a Matteo Arpe di Capital Italia, che ne mette in tasca soltanto 37 milioni e 405.000. Poniamoci un problema, ragazzi. Allora, un giovane precario che va a lavorare al call center, che magari è collegato al Capitalia di Matteo Arte, può ricevere fra i 700 e i 1000 euro netti al mese. Quindi significa che riceverà, diciamo, fra gli 8 e i 12 mila euro all'anno, grosso modo. Diciamo 10.000 euro all'anno per farci fratonda. Mettiamo anche che il signor Arte paghi, non ci credo quanto se lo vedo, il 40% dei suoi 37 milioni di euro, e mettiamo che questa dichiarazione corrisponda ai suoi guadagni reali, se ci credete. Quindi il Matteo Arte si porta a casa puliti puliti qualcosa come 15 milioni di euro all'anno, contro i 10.000 euro del giovane precario che sta nel suo call center. Da 10.000 a, abbiamo detto, 15 milioni, il rapporto è di qualcosa di 1 a 1.500. È così? Ora, voi mi spiegate una cosa. Mi spiegate la funzione economica di una retribuzione, di un differenziale salariale da 1 a 1.500. Voi mi direte, va bene, o parliamo anche, non solo di questo, parliamo dei dividendi del capo, che incassano fior di quello. Voi mi direte, vabbè, d'accordo, però sai, Arpe produce profitto, il vivo dello spettacolo fa audience e quindi attira pubblicità. E quindi in qualche modo è una parte del valore che loro producono. Se così fosse, noi dovremmo avere delle retribuzioni proporzionali ai profitti dell'azienda. sarebbe logico che l'amministratore delegato, il manager, ricevesse una cifra X piuttosto contenuta, diciamo, fissa, e poi ricevesse una percentuale sui titoli dell'azienda. Invece, guardate, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di bonus indipendenti dall'andamento dell'azienda, fino ad arrivare all'assurdo dell'Alitalia, che pagava il suo amministratore delegato Cimini una cifra 6 volte superiore a quella dell'amministratore delegato di Air France, Spinetta, che era l'azienda che si stava comprando l'Alitalia, che era indebitata. Ora voi capite che quando il manager dell'azienda indebitata guadagna 6 volte di più del manager dell'azienda che va bene, che si sta comprando l'azienda indebitata, e non c'è più nessuna razionalità economica. La verità è questa, che in questi differenziali salariali non c'è tanto un calcolo economico quanto l'affermazione di una funzione etico-pedagogica. È la sconfitta dell'idea di eguaglianza, è una lezione che serve a dire: le diseguaglianze sociali sono naturali, non superabili e vanno accettate. Anzi, la diseguaglianza sociale è un valore in sé. E il potere è giusto che sia remunerato in quanto tale, perché il potere decisionale deve coincidere anche con l'appropriazione di risorse. L'appropriazione di risorse è un rafforzativo della condizione del decisore. E qui veniamo all'ultimo punto. Chi è stato l'eroe eponimo, il soggetto sociale trainante della rivoluzione neoliberista? Ogni rivoluzione ha un suo soggetto, in qualche modo la locomotiva. La rivoluzione francese è stata la rivoluzione fatta dai sans-culottes, ma guidata da chi? Guidata dai gode la plume. Sapete chi sono i gode la plume? Tradotto in francese sono i pezzenti della penna. Sono quegli intellettuali del terzo stato, gli avvocati come Robespierre, i medici come Lavoisier, letterati, che essendo poveri però avevano studiati ed erano odiati dalle classi dominanti, che dicevano la loro propaganda rivoluzionaria è il prodotto della loro invidia sociale nei nostri confronti, perché loro sono dei pezzenti, i gobi, solo che sono i pezzenti colti della plume, della penna. L'alleanza fra quel ceto intellettuale, i sans-culottes, fra i go della plume e i sans-culottes produsse la rivoluzione francese, come l'alleanza fra gli intellettuali poveri e le grandi masse più che contadine operaie riprodusse la rivoluzione russa. Chi è il protagonista della rivoluzione neoliberista? Il protagonista della rivoluzione neoliberista è il manager. Qualche considerazione sul ruolo del manager. Chi è il manager? Il manager si afferma come figura sociale di gran parte. Fino a quel punto chi dirigeva l'azienda non c'era distinzione fra gestione e proprietà dell'azienda. Chi gestiva l'azienda era il padrone. Vi ricordate quando Lamberto Aliberti mi scotteva dicendo a lui, Aldo, usa questi termini, padroni, che io non ne ho conosciuto nessuno il padrone, aveva ragione, perché, oddio, fino a un certo punto che lui conosceva già gli Agnelli, che appunto è uno di quei casi. Il padrone chi era? Classicamente nell'industria il padrone era un ingegnere che aveva una capacità di organizzare i fattori della produzione, aveva a disposizione o trovava in prestito alle banche del capitale e fondava un'azienda. Ed era insieme il proprietario e il gestore dell'azienda. I primi grandi industriali sono ingegneri tendenzialmente. E naturalmente l'azienda e il padrone coincidono, gli interessi dell'azienda e quelli del padrone non sono scindibili. Ma le aziende crescono sempre più, e già negli anni 20 Henry Ford, che è un ingegnere ed è un padrone, però nello stesso tempo inizia a dirigere un complesso troppo grosso, è costretto a creare un circolo di collaboratori a cui affidare branche della produzione. Lo stesso farà il suo grande rivale, poi di parlare un attimo, ricordatevi di chiedermelo, Alfred Sloan, e nascerà un gruppo ancora di ingegneri, poi man mano ci andremo spostando. Nel 29 arriva la grande crisi, che è il fallimento dei padroni, che è vissuto in termini etici, in termini di giudizio politico, come il fallimento dei padroni. La risposta che viene data da Keynes, dai quali si ricordano soltanto le politiche di espansione della spesa pubblica, ma non si ricorda questo altro aspetto, fu quella di le aziende devono essere guidate da tecnici capaci. Dobbiamo separare la gestione dalla proprietà. Il proprietario riceverà il profitto, quindi tendenzialmente inizia a trasformarsi in rentier. Ma la gestione reale sarà del manager. Il manager è quello che deve gestire l'azienda. Il manager poi nel tempo non sarà più un ingegnere. Man mano sarà un avvocato, un economista, perché il manager non deve avere una competenza diretta sul prodotto. Il manager è indifferente. Il manager spesso è dirigente di grandi complessi industriali, la cui prima affermazione sono i zaibanzu giapponesi, grandi concentrazioni conglomerate dove mette insieme un cementificio, un'industria chimica, una catena di grandi magazzini, una fabbrica alimentare e una fabbrica che produce profumi come la Shiseido, aggregati insieme. Il manager è il dirigente, è lo stratega. Vi ricordate ieri cosa vi ho detto dell'idea di strategia che si emancipa dalla sua dimensione militare per diventare un ragionamento generale, in decisione, il grande progetto? Questo è il manager, che quindi non deve sapere come si fa un profumo, una macchina o un sacco di cemento. È indifferente. Deve comprare e vendere aziende. La sua capacità deve essere quella di apprezzare il valore dell'azienda. Ma tutto questo ha anche una funzione ideologica profonda. Il manager non rappresenta più il padrone, non è più quello che percepisce i guadagni. Il manager rappresenta l'interesse dell'impresa in quanto tale. Quindi in qualche modo il manager si propone non come nemico dei lavoratori, è lui stesso un dipendente dell'azienda, ancorché con una retribuzione molto più alta, peraltro all'epoca non così alta, ma è un dipendente. Il professor Valletta diceva di sé di essere il primo impiegato della FIA, che andava al lavoro per primo al mattino prima delle 6. Io sono il primo impiegato, non sono il padre. E per la verità bisogna dire onestamente che Valletta, che gestirà, sarà l'amministratore delegato della Fiat per tutti gli anni, tra la fine degli anni 40 e la metà degli anni 60, no, non dico che sia morto in povertà, non diciamo sciocchezze, ma non ha accumulato assolutamente grandi ricchezze, ha accumulato quello che può accumulare un dirigente industriale, ma non era certamente lui quello che guadagnava il profitto. Lui era in qualche modo il sacerdote della FIA, era quello che celebrava il culto dell'azienda, era quello che conosceva tecnicamente la soluzione giusta. Questa è l'ideologia tecnocratica. Mio amico Lamberto Liberti spesso mi scopre e dice: io auspico la scia tecnocratica. Io guardo e dico: guarda Lamberto, che il tecnocrate non è uno che non ha, per le sue decisioni non sono nemmeno, perché non esiste una sola decisione giusta, dipende dal punto di vista. Tutto questo dette luogo a una riflessione per cui negli anni, già negli anni 40, primissimi anni 40, Bannon e Schechtman, due sociologi americani, scrissero La rivoluzione dei tecnici, un saggio che appunto segnalava l'emergere della tecnocrazia e del ruolo di merito, qualcosa che ebbe un'assonanza in Italia nella burocratizzazione del mondo di Bruno Mizzi. Oh, guardate che questo fenomeno del gestore è comune, sia pure con proprie caratteristiche, anche a paesi diversi dagli Stati Uniti o dell'Inghilterra. Anche in Italia si afferma la figura del manager, per esempio il Beneduce, che sarà il fondatore del Biri. Questo succederà in parte anche in Germania, succederà anche nella Russia sovietica, naturalmente con la proprietà dei mezzi di produzione da parte dello Stato, forme, poi si discute se capite il nome di Stato o meno, ma grosso modo è questo. Quindi il manager si propone come l'incarnazione dell'azienda, capite come c'è un valore simbolico in tutto questo. Questo spiega queste rivoluzioni. Ma chi è il vero referente del manager? Teoricamente dovrebbero essere i proprietari, quindi gli azionisti, ma in quegli anni si è prodotto una frammentazione della proprietà attraverso una grande massa di azionisti, soprattutto negli Stati Uniti. Il capitalismo familiare ormai è una cosa che sopravvive in pochissimi paesi come l'Italia, dove appunto, vi ricordate una cosa che vi ho detto diverse volte, la sopravvivenza di valori premoderni in Italia come il familismo morale, eccetera. Bene, nella stragrande maggioranza c'è un fottato di capitale estremamente vasto e una grande frammentazione di azionisti che dicevano di dividendo, ma in realtà un potere piuttosto limitato. Spesso il manager poi diventa lui stesso comproprietario dell'azienda, convertendo una parte dei propri compensi in azioni, quindi in qualche modo poi anche un cospicuo pacchetto di voti, per quanto minoritario. Voi capite che in una situazione in cui ci sono 500 azionisti, tutti che hanno lo 0,3, 0,4, 0,6% e uno c'ha il 5%, quello che ha il 5% è il padrone, perché capite che è un vantaggio. Bene, chi è il vero padrone del manager? Non è l'azienda. Il vero padrone del manager, il vero burattinaio, è la banca. Perché il problema è che il manager deve trovare i finanziamenti e la banca gli concede solo a chi ritiene un'azienda. Ecco il discorso che ha fatto Alberto Aliberti. Lui non ridito, perché lui da tecnocrata in buona fede, di scuola industriale, lui viene dalla Fiat che era ancora industria, infatti avrete notato l'ombra di commozione che ha avuto quando ha parlato di Vidella, dello scontro contro Ronitti, e Vidella era l'anima industriale della Fiat, Ronitti era l'anima finanziaria. Lui viene da quella scuola e quindi ritiene questo con orrore, con raccapriccio, una bestialità, ha usato espressioni pure piuttosto colorite, ricordo la lezione, l'idea che il manager debba produrre valore, cioè apprezzamento dell'azienda in borsa, non valore reale dell'azienda, capitale umano, macchinari, brevetti, eccetera, no? O come l'azienda apprezza il titolo, perché sulla base di quello, cioè come la borsa valuta il titolo. Se il titolo aumenta, il manager è bravo, perché quello significa che la banca concederà più facilmente. E il discorso suo con i membri, di quando lei mi chiedeva, quando c'è un collasso e si sono bruciati, perché sì, significa questo. Significa che delle aziende, un gruppo o prevalente, hanno perso in termini di apprezzamento. E quindi il manager è stato, non il go della plume, perché tanto go da potenziale mi pare che non è, il ricco della penna, alle dipendenze del capitale finanziario, il braccio armato che ha realizzato la rivoluzione neoliberista. Punto d'arrivo di questa rivoluzione è la dispersione del sociale nell'Occidente. Come? In gran parte realizzata con un gruppo. Il passaggio dal fordismo allo sloanismo. Cos'è? Sloanismo. Allora, negli anni 30, quando ci fu la grande crisi, si affacciarono due proposte essenzialmente già dagli anni 20. Una era quella di Ford, che diceva: noi dobbiamo puntare alle economie di scala, per le quali più si produce, più scende il prezzo unitario del prodotto, più possiamo vendere. E quindi sullo slogan era: potete scegliere l'auto che volete purché sia una Ford, del colore che preferite purché sia il nero, e non rompete le scatole. Ecco, vedete la tendenza liberale a diventare affermativa, totalitaria. Questo era una battuta, ma spiega qualcosa. Dall'altro lato c'era un'alternativa apparentemente molto più libertaria, che era quella di Alfred Sloan, dirigente di un'altra grande azienda americana, la grande corporazione americana, il quale teorizzava che bisognava stimolare la domanda come diversificando il più possibile il prodotto, per colori, per prestazioni, per prezzi, per qualità, eccetera, cioè in modo da teoricamente produrre il prodotto su misura di ogni singolo acquirente. L'abito su misura per ogni singolo cliente. Vinse Ford, ma vinse Ford per un motivo elementare, perché Sloan non aveva a disposizione il mezzo per realizzare la sua idea. La sua idea era troppo costosa. Sloan si è preso la sua rivincita negli anni 80 con la nascita del CAM e del CAD. Cosa sono il CAM e il CAD? Sono i circuiti integrati che associano due tecnologie importanti, il robot e l'informatizzazione, la nascita della robotica. Un ciclo industriale che attraverso una serie di istruzioni permette di alternare la produzione come vogliamo, unendo le economie di scala. Cioè noi produciamo più auto, ma non c'è bisogno di farle tutte uguali, perché noi diamo istruzioni al computer per cui ci devi fare tot auto di questo modello, tot di quest'altro modello, quelle tante devono essere gialle, tante verdi, tante blu, eccetera, eccetera, eccetera. E questo implica più o meno lo stesso sforzo produttivo. Quindi ho le economie di scala, ma produco dei prodotti estremamente diversificati. Questo è diventato un valore ideologico della rivoluzione liberista, lo sloanismo sociale. Noi oggi addirittura siamo di fronte allo stress da scelta, come dicono alcuni sociologi. Abbiamo troppa scelta, è vero che è presente la persecuzione telefonica delle varie, sì, dei vari call center, ma noi gli offriamo un pacchetto di tot sms gratis, cos'è? Che in realtà tu dovresti studiare solo questo. Io ormai tendo ad essere molto sgarbato per telefono quando mi arrivano queste telefonate. In genere dico al mio interlocutore: ma non ti vergogni di fare un lavoro così socialmente inutile, parassitario? Ma io sto lavorando. No, stai facendo soltanto dei danni, guarda, e metto giù il telefono. Come? Non è colpa sua. No, ma lui deve rifiutarsi di fare un lavoro così di merda. Cioè l'hanno con gli orgoglio, ragazzi. Mi ricordo che sarebbe stato. Allora, lo sloanismo sociale è stato un elemento complementare fondamentale di due cose, e torno al discorso dell'inizio: il passaggio dall'identità del lavoratore all'identità del consumatore e la frammentazione iperindividualistica della società, la forte diversificazione di offerta e anche un ruolo psicologico che è quello del percepire se stesso come consumatore assolutamente unico. Quindi in qualche modo è uno specchio che ti rimanda alla tua immagine di individuo assoluto, non riducibile a aggregato sociale, quindi a movimento, a classe, a soggetto collettivo. Lo sloanismo sociale è diventato, per esempio, l'eccesso di offerta informativa su internet, sulle le 3.000 televisioni private che abbiamo. E tutto questo produce una società fortemente frammentata, sì, rispetto a cui c'è la controtendenza della rete. Però attenzione, la rete pone problemi di tipo diverso, magari ne parleremo. Allora, quali conseguenze sociali ha la globalizzazione? Questo nuovo progetto di società iperindividualista, tendenzialmente incentrato sulla disoccupazione di massa strategica. Guardate che nell'ottica che promuove questo progetto, l'idea è che il benessere di massa che c'è stato con welfare nel Novecento in fondo è stato solo un battito di ciglia nella lunghissima storia dell'umanità, dove è stato normale che le classi basse non avessero benessere, perché appunto le gerarchie sociali, la diseguaglianza, torni ad essere un valore in sé. In tutto questo c'è qualcosa di molto più profondo di un dato occasionale, ed è il processo a 3 secoli di storia, è il processo allo spirito rivoluzionario della rivoluzione francese, del liberté, égalité, fraternité, è il processo quindi al principio rivoluzionario che fonda la modernità, è il processo allo Stato nazionale affermatosi nell'Ottocento, è il processo al welfare state del Novecento, all'egualitarismo novecentesco, culminato poi nella rivoluzione mancata del 68. La reazione a tutto questo, guardate, la rivoluzione neoliberista può essere letta anche come la reazione a un lungo ciclo di storia iniziato nel 1789 e terminato nel 1991. Avete capito quali sono i 2 elementi storici a cui faccio riferimento? Va bene, allora ragazzi, forza, ci abbiamo un po' di tempo. Chi vuole intervenire? Vai. No, ma prima mi permetta una piccola provocazione sulle aliquote massime e sulla considerazione del lavoro. Non mi vergogno di dire sinceramente che io, quando ho avuto dichiarare all'Iseo, ho scritto 14.000, che è la verità, e se uno che mi prende in un mese ciò che io prendo in un anno, quello per me non è ricco, super ricco. È vero che non deve avere la tassazione come uno che prende 100, come quello che prende 100 milioni di euro all'anno, ma in ogni caso secondo me un'aliquota più alta ci dovrebbe essere senza dubbio. No, la domanda invece è su, non ho ben capito come funziona il TTN Diamond, nel senso, quell'80% di disoccupati, a questo 80% ci deve essere permesso di sopravvivere, e con quali risorse permette di sopravvivere? Perché se non glielo permetto ci saranno quantomeno delle rivolte, nel senso, io immagino. Va bene che posso gestirmeli con la televisione, che posso, ma in ogni caso devono sopravvivere, altrimenti c'è un collasso sociale. Il primo riferimento a quello che ho scritto in parte, io non ho capito qual è il vantaggio di questo meccanismo, cioè qual è la logica del mantenere un 80% della popolazione in attività. E poi avevo una domanda, un chiarimento riguardo alla concezione di totalitarismo liberale, partendo dalla concezione del termine totalitarismo, perché io sapevo, ma probabilmente è scorretto una cosa che termine, fosse stato teorizzato dalla Arendt, almeno nella concezione che la diamo noi, come movimento politico che si differenzia da tutti gli altri nel passato perché totalizza le masse, cioè coinvolge per la prima volta le masse e le rende partecipi del movimento come parte paradossalmente sia attiva che passiva. Io pensavo da membro, Pensavo da membro, Vabbè, penso c'è l'Arendt che ha unito tutto il nazismo, fascismo e stalinismo su questa concezione. Il liberalismo, che ha in sé la valorizzazione dell'individuo e la scissione delle masse, come può essere totalitario se lo prendiamo su questa concezione? Due cose. Quanto riguarda l'involuzione, diciamo, l'evoluzione individualista delle società occidentali per tutto il processo che fa, secondo lei che differenza c'è, cioè ci può essere nella riproduzione accelerata del processo che comunque l'Occidente ha fatto in 200 anni dalla rivoluzione industriale, così, che quindi è stato molto lento e che ha portato a una società individualista, eccetera, eccetera, in paesi come la Cina o in altri paesi, o in altri paesi dove sono ancora forti strutture comunitaristiche, cioè dove non è accentuato il particolarismo individualista che c'è in Occidente, che è stato creato ma in lungo arco. mondo al suo primo blocco. Ah, perché già io capisco, perché mi capita spesso con i ragazzi di avere questa obiezione di uno che dice: ma io che guadagno quello che l'altro guadagna in un mese, vedo quello in un anno, guadagno quello che quello guadagna in un mese, vedo quello che dice così. E io questo lo capisco, cioè che ci sia questa reazione soggettiva di rabbia è comprensibilissimo, ma è sbagliato, perché tu non capisci, cioè è giusto che quello paghi una aliquota di tasse superiore alla tua, certamente, se ci mancherebbe altro. Però tu non capisci una cosa, che hai bisogno di un blocco sociale che comprenda anche quello, perché se, prima di tutto ci sono due aspetti, se tu lo appiattisci rispetto a Tronchetti Provera, quello fa blocco con Tronchetti Provera a votare per chi gli promette di tagliare le tasse. Ne hai fatto un alleato del grande capitale. Tu invece hai il problema per reggere in una situazione in cui il potere dello Stato è eroso, no? Come abbiamo visto in queste elezioni. Per contrappesare un potere come quello delle grandi concentrazioni finanziarie internazionali, hai bisogno di una grande alleanza del lavoro che unifichi il lavoro dipendente, il lavoro autonomo e il lavoro precario. E quindi in qualche modo quello, in qualche modo, è certo, sono d'accordo che deve pagare più di te, è assurdo che paghi il 40%, ma soprattutto è assurda una cosa, è assurdo che tu nel tempo lasci fermo la soglia dell'aliquota, per cui man mano che vai avanti con l'inflazione, quella soglia colpirà sempre più giù, arriverà anche a te, perché arriverà il momento in cui tu guadagnerai 100.000 euro che non varranno assolutamente più. Soprattutto se fra 2-3 anni abbiamo un'ondata inflattiva violentissima, come io credo, tu arriverai a una tassa, a un livello di imposizione che sarà su 30 probabilmente, capisci? Allora l'assurdità, io capisco l'incazzatura nei confronti di quello che è un lavoratore precario, se non mette insieme una cifra del genere all'anno, guarda anche con una certa invidia sociale quello che guadagna 10 volte più di lui. Ma se io sono un morto di fame che guadagna un decimo, cioè se io fossi il lavoratore di Burkina Faso, potrei dirti che tu guadagni 10.000 volte più di me, 10.000 no, ma sicuramente tu guadagni 10 volte più di me, ma tu ti sentiresti il mio avversario? No. Ecco, capisco questo punto di vista, ma è sbagliato, cioè è umorale, viscerale, ha la sua giustificazione, ma non è razionalmente corretto. Giusto che ci sia una regolazione folle, che il 42% sia fermo a quella cosa. Seconda cosa, Peter Pellman. Come si arriva? Tanto cominciate a capire una cosa, rispondo sia a Rasmussen che a in parte Molinelli, eccetera. Allora, l'80-20 non è distribuito, intanto il ragionamento lo troverete in questo libro, sviluppato abbastanza bene, che è uno dei quattro che io vi ho consigliato. L'80-20 non è distribuito omogeneamente a livello mondiale, state attenti, perché la percentuale dei lavoratori è più alta nei paesi in via di sviluppo di quanto non sia, è qui che deve essere particolarmente bassa. Come la teniamo? La teniamo attraverso una politica di lavoro precario occasionale, cioè abbiamo un gruppo di lavoratori scelti più o meno stabili, che sono quelli che vanno in pensione a 60 anni, perché mica tutti andranno in pensione a 70 anni, cioè perché non andrà mai in pensione, perché non avrà accumulato assolutamente versamento. È prevista questa ipotesi. Non che dice come si concilia? Si concilia con il fatto che qualcuno non gli ha proprio la pensione. E perché? Tutti la devono prendere? No. Chiaro? Allora c'è un'area di lavoro più o meno dipendente o falsamente autonomo, come quelle false cooperative che fanno fare, che hanno il contratto di lavoro con un'azienda, in realtà è l'esternalizzazione di una fase del ciclo produttivo pagata come se quello fosse un lavoratore autonomo, solo e unicamente per scaricare i costi delle spese sociali, degli oneri fiscali sull'azienda e non pagare tutto. Questo poi è la filosofia. quelli sono il 20% medio che diventa meno di qua e di là. Poi c'è una grande area di lavoratori che attraverso un minimo di elemosine precarie, come sopravvivono? Possono sopravvivere attraverso il lavoro precario, possono sopravvivere con qualche rara provvidenza statale, possono sopravvivere con la prostituzione. La prostituzione di massa è un fenomeno sociale che noi dobbiamo guardare non con l'atteggiamento così rapido e facile, no, guardate ragazzi che sta diventando un fenomeno molto grave, non è affatto una cosa da sottovalutare. Possono sopravvivere facendo la nuova balanza della malavita, possono anche non sopravvivere, possono anche per esempio stare al giardinetto a fumare una sigaretta con la colla per avere effetti allucinogeni. Guarda, ci sono molte soluzioni possibili, non devi pensare che la verità è l'idea che c'è un'eccedenza umana. E qui ricordo Tognelli, dice, ma perché mantenere inattiva questa massa umana? Dice giustamente Morinelli, cioè, non farebbero più profitto a mettervi a lavorare e a guadagnare profitto, cioè a fare un'ulteriore massa di consumatori? Fermo. Intanto ti ripeto che il discorso non è omogeneo fra paesi in via di sviluppo, dove invece deve crescere il mercato, e paesi maturi. In secondo luogo c'è un problema, ci sono una serie di vincoli, come per esempio il vincolo ambientale, che non permettono di produrre più di tanto, di avere una soglia, per una serie di ragioni. Sarà il vincolo ambientale, sarà il vincolo anche della capacità di investimento. Un giorno io lessi un articolo dell'Espresso e dissi, questo è scemo. Cioè il lavoro sta diventando una risorsa limitata. E dissi, che cosa vuol dire questo imbecille? Il lavoro è la disponibilità di lavoro, della forza lavoro. No, lui voleva dire un'altra cosa. E non avevo, guardate come le parole talvolta confondono le idee. Non è il lavoro che è diventato limitato, il lavoro c'è, siete voi, il lavoro vivo. Quello che manca è l'occasione di impiego, cioè l'investimento di capitali che gli consenta di lavorare. Il pezzo di campo, l'azienda, il computer, eccetera, dove voi potrete lavorare. Questo non c'è. E allora, siccome c'è l'idea che sì, l'effetto leva, però attenzione, l'effetto leva deve controllare i suoi effetti. E siccome c'è da un lato il limite ambientale, c'è da un altro lato la necessità comunque di tenere sotto controllo le cose, ma soprattutto, caro Mognelli, c'è il problema che è quello del mantenimento delle gerarchie sociali. E mantenere sotto traccia, mantenere sotto certi livelli livello occupazionale significa mantenere anche scarsi salari, quindi in definitiva diventa premiale avere meno lavoratori ma più profitti. È una specie di punto di Cournot. Voi sapete che il punto di Cournot ve l'hanno spiegato economia? Tira su questo punto di Cournot è questo, è di quel punto di espansione massima fra prezzo e offerta. Se io metto un litro di vino a 10 lire, vendo un litro e ho un guadagno di 10. Se metto il litro di vino a 1 lira, vendo un litro e vendo 10 litri e ho un guadagno di 10. In realtà il punto migliore qual è? Immaginando un continuum, è 5 lire a cui corrispondono 5 acquirenti. Quindi realizzo 25 lire. È chiaro? Quindi non è detto che il prezzo massimo e il prezzo minimo siano quelli che ti fanno fare più profitto. In questo caso non è detto che il profitto massimo tu lo realizzi al massimo livello di occupazione. No, il punto di turno cade lì dove hai il livello salariale minimo moltiplicato il massimo di lavoratori possibili. E quindi è chiaro il concetto? In Cina, iperindividualismo, anche in Cina si sta producendo qualcosa di simile, anche se però, domani lo vedremo, tutto questo è dei limiti. In Cina uno dei compromessi che c'è stato fra il potere e la protesta sociale qual è stato? massima tolleranza sui consumi e in particolare sui costumi. Il vecchio puritanesimo maoista è stato accantonato, massima tolleranza sulle libertà sessuali. Prostituzione, i porno shop sono esplosi nelle città cinesi. Mercato del porno online, eccetera, in cambio del fatto nessuna liberalizzazione politica. Quindi anche lì hai avuto una forma di questo fatto. E lì veniamo a un discorso dei movimenti, ma che è questo strano animale del totalitarismo liberale? Ma se il liberalismo individualista come si concilia? Attento, a parte il fatto che Arendt, che è un classico che io amo molto, però non è l'unico autore sul totalitarismo, attenzione, quello è uno dei modi. Ma se ci pensi bene, non è incompatibile, perché in realtà l'iperindividualismo viene poi comunque rielaborato attraverso un coinvolgimento delle masse, e questo è il totalitarismo liberale, in tre forme. La forma della massa consumatore: tu sussumi gli individui, li governi attraverso le merci, quello che dicevo prima. Non sei tu che compra la merce che compra te determina il tuo stile di vita, ti impone i tempi di lavoro, ti impone anche gusti estetici. Secondo, attraverso i gusti delle telecomunicazioni, che è altamente passivizzante, ma non per questo non crea consenso di massa, stai attento. Soprattutto la televisione ottiene questo effetto. È già il liberalismo classico, non aveva a disposizione le televisioni private di Berlusconi e di Murdoch, perché non è che poi cambino. Terzo, attraverso le fiammate di protesta populista che sono la valvola di sfogo. Il populismo ideologico e come comportamento politico assolve una funzione di vaccino, di rafforzamento del sistema. Ultima cosa, Heidegger populista. Dunque, sì, purché si capisca in che senso. Guardate, una delle forme del populismo, proprio quello, è la difesa di un livello di vita acquisito, per esempio attraverso la xenofobia. Guardate che è estremamente interessante vedere il comportamento della Lega. La Lega, voi sapete, fa una campagna di diavolata contro gli immigrati, che sono quelli che minacciano la sicurezza, stuprano le donne, vendono cocaina, no? Però guardate che nei paesi amministrati dalla Lega le aziende che impiegano immigrati clandestini fanno perfettamente d'accordo con la Lega e gli amministratori della Lega non sollevano alcun problema. Quello che l'immigrato clandestino pagato 3 centesimi va benissimo. Quello che va male è legalizzato. E questo è il punto. E per il resto noi utilizziamo una campagna per i suoi riflessi secondari. Questo è uno degli aspetti del populismo liberale, Molinelli, la mentalità secondaria. Sai, io facevo caso a una cosa, negli anni dopo la seconda guerra mondiale, perché in tutti i paesi la parola guerra, anche quando la entra, non è ricordata con piacere, perché si ricordano i lutti, le distruzioni, le privazioni. C'è un solo posto dove la guerra ha lasciato un ricordo positivo e sono gli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale, una guerra lontana. Sì, un po' di privazione, ma affrontata da un grande ottimismo. E da allora nella retorica di governo si è affermata la parola guerra. Guerra alla povertà negli anni 60, guerra al cancro, dichiarò Nixon, guerra alla criminalità. Questo costituisce un immaginario simbolico che permette di mobilitare la società intorno al rappresentante del potere. Siamo in guerra contro la mafia, siamo in guerra contro il terrorismo. Una guerra lecita, giusta, beh, simbolica, non è che ci sono i carri armati, però siamo in guerra. E quindi, per esempio, rispetto al terrorismo non è ammesso il giudice terzo, non è ammesso che tu non abbia un atteggiamento sia pure critico, sia pure non filo terrorista, ma ti so perplesso su alcune soluzioni. Non è ammesso che tu sia neutrale rispetto alla guerra contro il cancro. E qual è, si crea un universo simbolico nel quale il nemico viene assunto come legittimazione dei poteri straordinari dell'esecutivo. Torniamo a una logica che è quella dello Stato d'assedio. Questa è la logica di Heidegger, capisci? Questa è la logica della Lega. In questo senso non devi pensare automaticamente al movimento populista che nasce quando c'è un impoverimento. Può anche essere la difesa di un benessere recente, e uno è il populismo tecnica di governo che permette al potere di gestire l'eventuale protesta sociale indirizzandola a lui contro altri suoi avversari. È chiaro? Ultime domande, osservazioni? No, una piccola osservazione velocissima sulla questione della Cina e della Germania. Ma a me sembra che perlomeno ufficialmente la Cina continui a cercare di bloccare l'accesso di forma nel grandi fare, perlomeno sul People's Daily di oggi c'è scritto questo. Sì, sì, ma guarda che c'è in realtà una grande tolleranza. Questo è il vero compromesso che c'è stato. Il vero compromesso è, va bene, sui consumi individuali fate quello che volete, però in politica fate quello che vogliamo. E il problema è arrivarci.